Femministanzia è il nome della trasmissione e del collettivo che sono nati con l'idea di creare uno spazio autogestito che sia di discussione che di musica e che dia appunto libertà di espressione e di creatività, di percorsi di resistenza femminile.